La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci, la rosa purpurea c'è, il vostro Franco D'Assisi a raccontarvi il cinema, sebbene reduce da influenza anche, e la voce è quella che è, mi perdonerete, ma i film ci sono, li vediamo, li raccontiamo, li spieghiamo e li viviamo insieme, come tutte le settimane qui a Radio 24. Allora, andiamo subito nel vivo della trasmissione perché c'è tanta carne al fuoco, qualche importante film uscito in sala e anche qualche film destinato a portare a casa incassi grandi, come Cenerentola, che è partito subito molto forte al botteghino. Cominciamo dal lato qualitativo, diciamo così, non che altri, come Cenerentola per esempio, ne parleremo fra poco, non ne abbiano. Vi ricordo anche che è la puntata in cui fra poco avremo ospite Carlo Verdone, quindi restate con noi perché ci racconterà un po' quello che è il punto che sta vivendo la commedia italiana dopo aver ritirato un premio la settimana scorsa. Avremo altre interviste, avremo i soliti consigli sull'home video, avremo il nostro gioco per vincere splendidi Blu-ray, insomma, un motivo buono per stare insieme in questa oretta di cinema. Dicevo, cominciamo con la qualità, cominciamo con Black Hat, il film che segna il ritorno in sala in Italia di Michael Mann con Chris Hemsworth protagonista. Ascoltiamo la clip. L'indirizzo del nostro uomo, o quello che sta tramando, è lì dentro, giusto? Solo che non possiamo leggerlo. Andiamo. La mia vecchia corrispondenza con Dana Yu è qui. Ma è impossibile che quello Gin sia ancora attivo. Non penso di usare quello Gin. Ok, Dana Yu, il contatto con cui stavi parlando. Se l'NSA scopre l'intrusione, sei sicuro di volerlo fare? L'FBI non può giustificarlo. Se localizzi il nostro uomo, sei a posto. Se vieni scoperto, sei finito. Tu lo sai, vero? E allora, avete già intuito che dal clima di questa clip, che insomma siamo nel genere appunto spionaggio poliziesco FBI, noir, ci sono catene centrali nucleari che esplodono, ci sono autorità cinesi americane che provano ad avere la meglio l'una sull'altra, c'è l'FBI coinvolta, insomma tutto il materiale che sta bene nelle mani di un regista che con Miami Vice, Collateral, come dire, è un regista di anima metropolitana, è un regista di anima nera, è un regista di anima poliziesca, e dove c'è il torbido riesce con i suoi silenzi più che con le sue parole, e con la luce più che con diciamo la recitazione in sé degli attori a disegnare il suo cinema. Se è così anche stavolta, noi lo chiediamo a Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beh, devo dire che questo Black Hat di Michael Mann è una bellissima sorpresa, non perché Michael Mann avesse avuto qualche problema negli ultimi anni, anche se forse non aveva veramente azzeccato tutti i film, ma perché lui torna forse a quella brodo visionario, a quella radura in cui pesca le sue intuizioni migliori, con un modo giovanile di affrontare il cinema che forse non gli riconoscevamo più. Non dico che fosse diventato manierista, perché è eccessivo, però forse si era troppo innamorato del suo stile, anche giustamente, perché è davvero uno dei poeti del noir contemporaneo, ma anche proprio uno dei poeti della visionarietà cinematografica degli ultimi decenni. E Black Hat è il Mann più spontaneo, più potente, più forte, prende una storia delle sue, viene in mente, anche se non c'è la tecnologia in quel film, non c'è una grandissima complessità come in questo caso viene in mente Collateral, cioè quando il thriller, il noir viene fatto dalla macchina da presa del regista prima ancora che dalla trama. Qui c'è anche una certa complessità della trama, con Chris Hemsworth che deve prendere questa banda, che deve comunque cercare questi soci americani e cinesi, va da Chicago a Hong Kong, quindi c'è anche una mobilità che in quel caso era data solo ed esclusivamente da un'auto, da un veicolo. Però il principio è quello, cioè la ricerca di un man all'interno del suo cinema, all'interno di tutto il suo talento, che prova a sfruttare tutto lo spettro spettro di quello che ha imparato negli anni e che ci ha insegnato soprattutto negli anni. E ne esce fuori un film che davvero per 133 minuti ti dà l'impressione di essere sotto scacco del regista, ma nel senso buono, nel senso che riesce a stupirti anche quando la trama ti obbliga a passaggi necessari, imprevedibili. Lui riesce con la luce, come dicevi tu appunto, con la visione, con l'intuizione a tenerti addosso alla poltrona, quindi davvero uno dei migliori film, probabilmente alla fine della stagione lo definiremo uno dei migliori film della stagione. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, seconda parte della Rosa Purpurea. Come promesso parliamo di una proposta italiana di questo fine settimana, si intitola Cloro, è appena stata al Festival di Berlino. Ascoltiamo questa clip. Sì, che facciamo con Fabrizio? È meglio se viene a stare da te. Non mi piace. Ci sono delle cose da sistemare. Ma quali cose, zio? Io devo tornare a Ostia, ritiro per i campionati italiani. Ti cavi della piscina. Dice la seconda volta che ti becco, che sia l'ultima. Ma tuo padre Fabrizio come fai? Non tocca a me occuparmi di loro, no? Ma pensi che possiamo andare avanti così? Lo capisci che è colpa tua se siamo puniti quassù? Lasciami. No, non ti lascio stare! Parliamo di Jenny, 17 anni, una grande voglia nel cuore, quella di diventare campionessa di nuoto sincronizzato, ma una vita che viene disastrata da motivi che non sono suoi, da un padre in depressione che perde il lavoro dopo avere perduto la moglie, che è la madre appunto di Jenny, un fratellino che subisce questa situazione in maniera molto forte, un trasferimento che spezza ancora di più i legami da Ostia, quindi dal mare, dall'acqua, alla montagna dell'Abruzzo, posti bellissimi per carità, ma relazioni tutte da reinventare. Jenny che cerca di essere davvero l'elemento di questa famiglia un po' allo sbando, che tiene la barra dritta e cerca di salvare se stessa e gli altri, ma ha bisogno di quel contatto, ha bisogno di quella situazione, ha bisogno del cloro, di quell'odore dell'acqua, del suo nuoto sincronizzato. È davvero un bel film, questo Cloro, passato al Festival di Berlino proprio il mese scorso e adesso nei cinema italiani. Noi siamo in collegamento con Lamberto Sanfelice, opera prima per questo regista. Ciao Lamberto, benvenuto alla Rosa Purpurea. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Allora, Lamberto, la prima cosa che mi ha colpito del tuo film è come hai messo insieme gli elementi. C'è una ragazza d'acqua, diciamo così, che si trova a dover tenere in piedi una situazione molto difficile in un terreno, diciamo veramente in un terreno che non è il suo, quello della montagna. Quanto conta anche questa distonia, se vogliamo, fra questi due ambienti dentro la tua storia? Intanto grazie per la sintesi che hai fatto, che mi sembra molto centrata, ti ringrazio. Questo film abbiamo cercato di lavorare molto sui contrasti, proprio perché è un film che da un certo punto di vista parla di questo sradicamento di questa ragazza dalla sua vita quotidiana. Ho giocato un po' su questi contrasti, mare, montagna, sui luoghi e così anche sui personaggi, assolutamente. Ecco Lamberto, hai usato come sport e come passione, come quasi motivo di vita di questa ragazza, il nuoto sincronizzato. Forse questa scelta è dovuta anche al fatto che anche lì c'è un sopra e c'è un sotto, cioè c'è un sott'acqua, un sopra dall'acqua, quasi due mondi e due ambienti che si devono fondere insieme. Sì, c'è sicuramente quell'aspetto di quello che succede nel nuoto sincronizzato, che è quello che vediamo, che di solito è fuori dall'acqua, o almeno quando sei tra il pubblico lì alle piscine e vedi questa coordinazione estetica, un'espressione artistica, e mentre quando vai sott'acqua a vedere quello che succede invece è un grande sforzo, anche non sempre ordinato, però è come il motore che produce questa bellezza che noi invece vediamo fuori dall'acqua. E poi il nuoto sincronizzato, cioè sia la parte atletica che la parte artistica, per cui l'espressione artistica, la musica, che sono di solito le cose di cui i giovani ragazzi sogni, per cui abbiamo trovato una sintesi che ci piaceva molto in questo sport e l'abbiamo usato per dare questo sogno a questa ragazza. Ti faccio un'ultima domanda proprio sulla ragazza, perché ho trovato che la scelta di Sara Serraiocco, protagonista di questo film, sia stata una scelta davvero importante. Sara ha dimostrato di poter tenere un film drammatico da protagonista. Ricordiamo la ragazza che faceva la non vedente in Salvo, che fu un film rivelazione nel 2013, se non erro, al Festival di Cannes, premiato dalla critica, e che stavolta nel tuo film ha il suo primo vero ruolo da protagonista. Come l'hai scelta? Ma sì, all'inizio ero più propenso a scegliere una ragazza del mondo dello sport, magari trovandola in piscina, più che un'attrice vera e propria. Poi Chiara Agnello, che è la direttrice del casting, mi ha presentato Sara, con cui aveva appunto lavorato su Salvo, come hai detto te, che è il film che è andato a Cannes un paio d'anni fa, e mi è piaciuta molto. Ho trovato interessante lei come fisicità, come espressioni, ma anche e soprattutto sul fatto che Sara voleva fare proprio un percorso per calarsi nei panni di questo personaggio, e mi è interessato molto lavorare con lei proprio per lavorare su questo percorso, e sono insomma chiaramente molto felice che Sara abbia fatto il film e per come un po' se lo porta sulle spalle, come hai detto te. E allora Lamberto, in bocca al lupo per il percorso in sala di Cloro nei cinema italiani, e grazie per essere stato con noi. Crepi il lupo e grazie a voi. Prego. E allora è arrivato il momento di giocare insieme con il primo frammento del film misterioso di oggi. Sai che cos'hai, ragazzino? Tu hai noi, l'uno per l'altro. E se questa non è una famiglia, non so che cosa lo sia. E allora, diteci di che film si tratta, scrivetecelo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, con il vostro indirizzo di posta, per provare a vincere una delle due copie del Blu-ray di questo film, che vi sveleremo la prossima settimana, mentre fra qualche minuto vi faremo ascoltare un'altra traccia. Torniamo al cinema americano. È stato uno dei protagonisti della recente notte degli Oscar, con tante nomination, con 5 candidature per la precisione, un film anche questo di ambito sportivo, per questo li abbiamo voluti tenere insieme, Cloro e Foxcatcher, ispirato a una storia vera, a quella di un lottatore americano di cui si innamora, fra virgolette, se vogliamo, o forse non solo, un ricco miliardario che butta su di lui tutte le sue mire maniacali, quasi, di costruire un campione che possa andare alle Olimpiadi di Seul. La storia è proprio quella di Mark Schultz, il miliardario, e John DuPont, la sua storica famiglia americana. Tutto questo avviene dentro uno splendido scenario, quello di questa tenuta, appunto, nella quale a Foxcatcher viene costruita una palestra che diventa il fiore all'occhiello di questa squadra, ma di fondo capiremo subito che il ricco miliardario, tutto sommato, non ha alcuna presa sugli atleti, riesce a essere considerato solo in virtù dei soldi che mette a disposizione, tra l'altro con una madre piuttosto vessatoria. Allora, ascoltiamo questa clip e ne parliamo con Boris Sollazzo. Hai idea di chi sono io? Sono un uomo molto ricco, un patriota. Voglio parlare con te e sapere qual è il tuo obiettivo. Dimmi, qual è il tuo obiettivo, Mark? Voglio diventare il migliore. Coach DuPont ha un sogno. Vorrebbe che Foxcatcher diventasse la sede degli allenamenti della squadra nazionale. Tocca a te ora. Glielo prometto. Le darò tutto quello che ho. Torniamo da Boris Sollazzo per parlare un attimo di Foxcatcher, un film che ha diviso molto Boris, perché c'è una storia veramente molto forte di questo rapporto che è pupillo mentore, ma anche un rapporto venato di follia, se vogliamo, fra l'allenatore e l'atleta. C'è anche una scelta di regia che è quella appunto di Bennett Miller, lo ricordiamo, 48 anni, regista di Truman Capote, regista di Moneyball, L'arte di vincere, di film che a me personalmente sono piaciuti tutti molto. E allora la scelta di regia qual è? Quella di sottrarre moltissimo, di allungare, dilatare i tempi, di usare pochissimo la musica, di farti entrare in questo clima quasi da delirio, direi, toglierei anche il quasi, che vige, che governa questa situazione, anche per far risaltare di più poi la reazione dell'atleta di Moneyball, Mark, appunto, interpretato, lo ricordo, da Channing Tatum, nel film anche Steve Carell, tra l'altro, e Mark Ruffalo e Vanessa Redgrave e Sienna Miller, un cast molto importante, ma insomma il film è tutto sulle spalle della doppia coppia, appunto, allenatore lottatore. Però a qualcuno, Boris, questa scelta così sottrattiva non è piaciuta molto. Io ho trovato un film nel quale magari si fatica a entrare, ma quando ci entri ti lascia davvero senza fiato. Beh, io ammetto che lo considero un capolavoro, lo considero uno dei film più belli visti lo scorso anno, un film pazzesco, lo capisci secondo me dalla primissima scena, quei due fratelli, Ruffalo e Tatum, che lottano tra di loro quasi in un goffo minuetto, in un ballo che ha... è aggraziatissimo, nonostante lo sport che praticano non lo sia affatto, la lotta, e Miller lo gira e loro lo interpretano con tutta l'intensità, con tutta l'eleganza che poi rappresentano il film, perché il film si fonda sulle fragilità di tre uomini, perché non solo c'è Channing Tatum, appunto il campione, che però non sarà mai abbastanza campione, perché il fratello è sempre stato più bravo di lui, il fratello è sempre stato più di lui, sia in termini umani sia in termini sportivi, e dall'altra parte Steve Carell, pazzesco, straordinario anche lui, che è un miliardario, che inadeguato lo è da quando è nato, lo è perché tutti lo considerano solo per i suoi soldi, lo è perché non ha né il fisico per fare lo sportivo, né la testa per gestire tutti quei soldi, infatti ci pensa l'arcigna madre. E quindi già dall'inizio tu capisci tutto quello che porterà Bennett Miller, e la cosa sconvolgente e che colpisce molto è come costruisce tutto questo il regista. In Moneyball che cosa succedeva? I soldi non erano così importanti, c'era la ragione al di sopra di una realtà come quella sportiva, che spesso la ragione non la conosce, una ragione che veniva portata all'estremo, ma poi il protagonista Brad Pitt veniva sopraffatto dall'istinto, veniva sopraffatto dal tifo, veniva sopraffatto dal cuore. Qui a un certo punto si capisce subito che la ragione viene persa immediatamente e lo sport viene invaso dalle cose in cui in Moneyball non c'era, e quindi i due film sono completamente complementari, cioè dai soldi e dal cuore, da dei cuori pazzi che si lasciano totalmente andare. Potrebbe essere un film tra virgolette isterico, non lo è affatto, proprio perché come dici tu c'è questa scelta di regia che va in controtendenza, no? Potrebbe essere una serie di follie una presso l'altra, visto i personaggi instabili, invece tu assisti a una lenta deriva, benissimo gestita da Steve Carell, la sua pazzia che va avanti passo in passo è benissimo rappresentata e ti dà sempre l'impressione che si possa tornare indietro, ti dà l'illusione che si possa non arrivare all'ineluttabile finale. Bravissimo Channing Tatum, che deve fare sostanzialmente l'utile idiota che si crede genio, e lo fa benissimo, e Ruffalo che tiene, diciamo, questa coppia, è il picchetto che tiene questa coppia fino a quando non sarà troppo tardi. Devo dire, io l'ho trovato assolutamente un film perfetto, come dici tu, forse c'è qualche difficoltà nell'entrarci nonostante quella scena iniziale meravigliosa, ma veramente io ve lo consiglio perché racconta tanto dello sport, della vita e anche tanto del cinema. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma. Parliamo con, fra poco, Carlo Verdone, che ha appena vinto è stato insignito di un premio alla carriera. Il premio gli è stato consegnato in quel di Grosseto, premio appunto per la splendida carriera e per quello che ha rappresentato Verdone nella commedia. Per noi l'occasione per raccontare, per chiedere a Carlo Verdone un po' dei suoi nuovi progetti che si stanno già muovendo e un po' anche del punto in cui versa in questo momento, secondo lui, secondo la sua analisi, la commedia italiana. Ascoltiamolo. Non c'è il coraggio che c'era una volta, perché? Perché incomincia a mancare un po' di pubblico al cinema, soprattutto pubblico giovane, quindi diciamo che lo zoccolo un po' più duro è da 30-32 anni in su, ma mancano quelli più giovani. Quindi noi abbiamo perso diversi milioni di spettatori. Allora che cosa succede? Succede che c'è meno coraggio. Chi ha coraggio allora entra dentro YouTube e cerca di individuare qualcuno che ha molte visualizzazioni, che continua a fare degli sketch con molto successo, che ha molte approvazioni, e quindi si tenta. Però non so se questo secondo me è un metodo giusto. Io credo che il grosso problema nostro della commedia è che mancano, più che attori e registi, che ce ne sono abbastanza, mancano gli scrittori, quelli che hanno fatto grande la commedia. Noi, se ricordiamo dei grossi nomi degli anni 50, dei primi anni 60, noi abbiamo nomi enormi, Flaiano, Amidei, Gadda su un altro piano, Vitaliano Brancati, cioè era gente che scriveva per la letteratura, ma erano anche dei racconti o dei romanzi adattissimi al cinema. Quindi siamo sofferenti dal punto di vista della scrittura, questo è il grosso problema. Certo, questo non è solo della commedia, tra l'altro, questo problema è... Di commedia ne facciamo anche troppe, certo. Il problema è che vanno scritte bene, per scriverle bene bisogna allenare dei giovani scrittori alla scrittura della commedia, che non è facile. Poi commedia, io direi al cinema in generale, certo. Perché poi alla fine... Non è che sì, il cinema non deve essere identificato soltanto con la commedia, perché sennò sarebbe la fine. Assolutamente, ma sennò sarebbe un intrattenimento e basta. Siamo in mano agli scrittori. Ai soggettisti, agli certo. Sceneggiatori. Sceneggiare un film è una cosa complicatissima, non è scrivere uno sketch. Io posso dire che soltanto dopo Borotalco ho capito come si sceneggiava un film. Ho impiegato 3 anni, non è una cosa che si impara così al volo, ha tutta una struttura sua nei tempi, nelle lunghezze, si fa già del montaggio nella scrittura di un film, quindi è una scrittura molto particolare rispetto a un libro. Carlo, hai detto prima la questione dei giovani, e soprattutto i giovani, che è una cosa molto preoccupante, che vanno sempre meno a un cinema in sala, che a mio modo di vedere è il cinema, punto. Che è condivisione. Assolutamente, perché... quella è la dimensione del cinema, quella lì è la dimensione del Cina, poi il resto è vedere i film, che è un'altra cosa. Però tu, tra l'altro, mi sembra che proprio recentemente hai anche preso una posizione insieme ad altri personaggi del cinema italiano come Tony Servillo, eccetera, proprio per chiedere che i cinema restino cinema. C'è una speranza? Qual è lo strumento, il veicolo, il mezzo per far sì che questa cosa funzioni? La sensibilità delle persone delegate alla cultura. Se loro continuano a infischiarsene della legge in cui non si può destinare ad un uso diverso un cinema, qua chiuderà tutto, perché non possiamo chiudere i cinema e poi aprire delle ginserie oppure delle bar per aperitivi, come sta succedendo adesso. Noi abbiamo chiuso un'infinità di sale, non soltanto a Roma ma in tutta Italia. Chiudere la sala cinematografica è un grosso errore, anche se i tempi sono un po' difficili, però va sostenuto, perché è l'ultima possibilità per creare un'aggregazione, una socializzazione, una condivisione nel vedere il film. Siamo tutti soli ormai col computer, lavoriamo tutti quanti da soli, è il periodo della solitudine. Se togliamo anche quello, è un grosso problema. Cinema e teatro in questo momento stanno soffrendo molto questa assenza di condivisione insieme, questa va mantenuta. Quando bene riusciamo a tenere aperti questi cinema, come si fa a fargli andare dentro i ragazzi più giovani, che sono quelli proprio di quella generazione che invece ha sviluppato una cultura visiva fatta di smartphone e di iPad? Come si fa? Innanzitutto noi autori abbiamo una grossa responsabilità nel dargli dei prodotti buoni. Di prodotti buoni ce ne sono tantissimi, italiani e non italiani. Spesso accade però che stiamo pagando una cattiva televisione che negli ultimi 30 anni ha in qualche modo impoverito un po' la sensibilità dello spettatore giovane. Quindi lo spettatore giovane ormai considera, non dico tutti per carità, però gran parte lo considerano come un puro intrattenimento. E questo non va bene, perché il cinema spesso racconta delle vicende, della realtà, della storia, che sono certe volte molto più efficaci di un film drammatico. Se la commedia è fatta bene, può fare delle cose molto molto importanti. poi soprattutto cerchiamo di rendere queste sale in qualche modo decenti, perché spesso sono indecenti, le sedie rotte, il riscaldamento che non funziona, l'aria condizionata che non funziona, i gabinetti che fanno schifo. Tu paghi per entrare, ma entri spesso in un disastro, e quindi già questo depone abbastanza male. Il cinema è il tempio dell'immagine, il cinema va in qualche modo salvato, va salvata la sala, perché un film è nato per essere condiviso. Vedere un film a casa va benissimo, si può fare una, due, tre volte, ma poi distrazioni, telefono, è quello, è quell'altro, quello che ti chiama, un messaggio di WhatsApp, è quello. Non si vede con quel religioso silenzio come si dovrebbe vedere qualsiasi tipo di film, sia drammatico, sia intimista, sia di commedia. Carlo, ti faccio un'ultima domanda. Dalla fine degli anni 90, più o meno, metà degli anni 90, tu praticamente esci con un film ogni paio d'anni, adesso anno sì, anno no, ma e quasi sempre sono anni pari. Allora mi viene da dire che il prossimo è il 2016, cioè l'anno prossimo. Cos'hai in serbo? Cosa ci puoi dire? Ma io posso dire poco, perché adesso aspetto la firma di un altro coprotagonista che sicuramente arriverà, però fino a quando non firma io non m'azzardo. Io credo che farò un film a due, principalmente a due, avrà un contorno ovviamente corale, però mi è venuta fuori una storia molto, molto dinamica, anche abbastanza inusuale per me. C'è anche una sorta di piccolo giallo dentro, quindi metto da parte quel lato di malinconia che in qualche modo ha accompagnato questi ultimi anni, di malincomicità, via, ecco. Ed ecco, quindi con un film dove posso duellare alla grande con un altro attore che stimo molto. Poi sul nome dell'attore facciamolo firmare, poi te lo dico, dai. Comunque tu ci sarai, questa è già una notizia. Comunque io esco, guarda, esco a gennaio 2016, io so che il produttore si è già piazzato, il film promette bene, quindi gli è piaciuto molto il soggetto, De Laurentiis, quindi gennaio 2016 uscirò quindi confermiamo la legge dell'anno pari, perfetto. Sì, no. Non è come prima, mi dovete dare un po' più di tempo. Un po' di tempo. Grazie. Sono 37 anni che lavoro, Sì, ma sembra che tu ne abbia 37, invece. magari. Carlo, grazie mille davvero per il tuo tempo e alla prossima. Alla prossima, grazie. Ciao. Carlo Verdone alla Rosa Purpurea, e allora è il momento di parlare adesso, anzi di giocare ancora insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Eccellente Skipper, ma ora sembra che siamo all'esterno dell'aereo. Mi sono fatto trascinare dagli eventi. Col senno di poi tutto è più chiaro. Oh, perché non prendiamo quell'aereo? Tutto è più chiaro davvero adesso. La Rosa Purpurea @radio24.it. Che film è? Titolo e vostro indirizzo, provate a vincere uno dei due Blu-ray a disposizione per voi che sveleremo la prossima settimana. E adesso invece parliamo di un'altra commedia italiana che arriva nelle sale, torniamo all'attualità cinematografica, ai film da vedere in sala in questo weekend. Abbiamo parlato di commedia con Carlo Verdone, una commedia sicuramente, una remake a suo modo, ma che bella sorpresa, con Claudio Bisio. Ascoltiamo la clip. Professore! Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Sto bene, prof. Benissimo. Adesso, ma state facendo? Non è che noi professori siamo entità sessuate, eh? Pensavate che avessi rapporti solo con Virginia Woolf o Elsa Morante? No. Solo con Opale. Cioè, Opale strano. Cosa? No, niente. Ah, scusate. Lei è Silvia. Il momento in cui Claudio Bisio bacia un palo della luce in quel di Napoli, beccato dai suoi studenti. Claudio Bisio nei panni di un professore milanese che insegna a Napoli, appena lasciato dalla donna che ama, si crea semplicemente l'immagine di una donna perfetta ma altrettanto immaginaria, con la quale lui ha una relazione assolutamente vera, assolutamente fisica, addirittura sessuale, che chiaramente vive solo lui, mentre gli altri lo vedono girare appunto con una sorta di fantasma di fianco. La situazione comincia a preoccupare il suo amico Frank Matano, e mentre Valentina Lodovini, che appunto è invece la vicina di casa, quella vera in carne e ossa, si innamora di lui, ma capisce che c'è qualcosa che non va. Boris, una commedia, abbiamo detto, questa volta per raccontare la solitudine, un remake tra l'altro, o forse una libera ispirazione a un film, se non sbaglio, brasiliano, che aveva raccontato questa storia. Sì, esattamente. Niente, devo dire, è anche una scelta coraggiosa per una commedia raccontare l'assenza, raccontare la solitudine e far ridere con quel tema, perché non è comunque facile. Non si riesce ad avere chissà quale efficacia, perché a mio parere è difficile trovare una varietà di gag con una presenza assenza così forte, cioè quando ciò che ti deve far ridere è sempre solo il fatto che tu vedi qualcosa che non vedi, o lo costruisci come, anche se non era una commedia, anzi, Fight Club, in cui il dubbio ti rimane o addirittura non ce l'hai, oppure se questo viene comunque svelato e il gioco è che lo spettatore e gli altri attori lo sanno, ma il protagonista no, si esaurisce molto presto. L'impressione è che davvero poteva essere una simpatica idea, una bella idea per un corto, ma portata nel lungo alla fine si fa fatica. La rosa purpurea. Eccoci ancora insieme. Allora, fra poco parleremo di cinema da vedere in casa, però c'è ancora un film che abbiamo tenuto qui alla fine, no? Di quelli che sono usciti in sala, tra l'altro è quello che ha cominciato meglio il suo percorso nelle nostre sale, proprio già dalla sua uscita di giovedì. Per quanto riguarda gli incassi, stiamo parlando ovviamente di Cenerentola. Disney ha abbracciato l'idea di far tornare al cinema le sue grandi favole, ma stavolta non in cartone animato, ma in live action. Cenerentola è uno di questi esperimenti davvero riuscito, a mio modo di vedere, sotto tutti i profili: quello della scelta del cast, quello della regia, quello dei costumi, quello della magia, che è la vera ricetta Disney. Sentiamo la clip. È secca come un manico di scopa e quei capelli stopposi. Siete molto gentile. Benvenute, sono così felice di conoscervi. Oh, che bei capelli che hai. Oh, grazie. Dovresti farteli acconciare. Oh, io... forse hai ragione. Volete vedere la casa? Che cosa ha detto? Vuole farci fare il giro della sua fattoria, ne va fiera, credo. Ma tengono gli animali in casa? No. Incantevole, davvero incantevole. Lucifero? E allora, avete sentito un po' il chiaro e l'oscuro di questa eterna favola. È inutile che io stia a raccontarvi la trama, tanto è quella, è sempre quella ed è assolutamente, deve essere quella. Vi dico però che dirige Kenneth Branagh, che è uno che già dai tempi di Molto Rumore per Nulla ha dimostrato di saperci fare quella favola quasi col musical, ha una leggerezza di tocco che è davvero straordinaria. Che la Cenerentola di Lily James è azzeccatissima, direi perfetta, che il principe di Richard Madden è integro e simpatico il giusto, che Kate Blanchett perfida fa morire da ridere, che Helena Bonham Carter fatina è imperdibile, insomma, e soprattutto Boris, la cosa che mi ha fatto davvero capire che qui siamo di fronte a un dico capolavoro, capitemi, capolavoro nel senso di cosa vuol dire trasportare quello che è stato per tutti, per decenni, un cartone animato, farlo vivere senza perdere la magia. E secondo me questa è l'operazione più riuscita di tutte. Ma io sono d'accordissimo, secondo me ne fa acquistare di magia. Cenerentola ha una costruzione, perché è un classico, un capolavoro straordinario, però una costruzione per cui più cresci meno ci credi. Però Cenerentola lo ha dimostrato proprio Carlo Verdone, che ne ha fatto un rifacimento teatrale, è una storia che si presta all'interpretazione, nonostante sia una storia granitica a suo modo, si presta molto all'interpretazione, si presta molto a raccontare con toni diversi questa storia. E qui Kenneth Branagh sceglie qualcosa che è molto interessante, sceglie di riportare in live action tutta quella magia, tutto quel romanticismo, e lui è bravissimo, lui ha anche quella giusta dose di retorica per essere un'animazione vivente, e dall'altra parte però non rinuncia all'ironia, che onestamente in Cenerentola non c'era nel film d'animazione. Sì, c'erano i topini, c'era la parte divertente, ma la parte di l'ironia non c'è, quindi è Helena Bonham Carter, quindi Kate Blanchett. È come se Kenneth Branagh decidesse, insieme alla sua arte, che davvero è sempre stata molto colorata ma anche molto alta, pensiamo a tutto ciò che ha fatto appunto di shakespeariano, è come se Kenneth Branagh decidesse di far crescere Cenerentola, cioè di far maturare Cenerentola senza farle perdere nulla di quella magia. È un po' come se Peter Pan, appunto, come successe con Robin Williams, tornasse sull'isola che non c'è quando inizia ad avere le rughe. La magia forse di Cenerentola è proprio quello, oltre al fatto che poi scenograficamente, a livello di costumi e oltretutto appunto come colori, come dicevamo prima, il film ha una resa eccezionale, anche la resa proprio artistica, la resa non solo degli attori pazzesca. Quindi io mi sono divertito come un matto, avevamo qualche pudore nel chiamarlo capolavoro, però è davvero un lavoro che mette punto e a capo su un certo tipo di genere, quindi non posso che fargli i miei applausi. Assolutamente, tra l'altro lo hanno detto anche Kate Blanchett alla conferenza stampa a Berlino, vi dico, è capitato a me, che sono un omone, come dire, strutturato al cinema, e anche a colleghe attempate, adesso non voglio ovviamente fare nomi, ma insomma, di commuoversi alla scena del ballo è una cosa incredibile, cioè, e lo ha detto Kate Blanchett in conferenza stampa a Berlino, ha detto: molti hanno pianto alla scena del ballo. Sentiamo come la ricorda quella scena la protagonista, Lily James. La sequenza del ballo è stata davvero una sequenza magica, ma anche quella che mi preoccupava di più. Mi rendeva estremamente nervosa perché era il momento in cui avrei davvero incarnato una principessa, un momento iconico nell'immaginazione di tutti gli spettatori. Dunque ero molto agitata, ma mi è bastato aprire quella porta ed entrare in quella sala per trovarmi davvero in un'atmosfera magica, da fiaba. Richard ha ragione nel dire che non c'è nessun bisogno di recitare quando ci si trova su un set di questo tipo. Tutto avviene in modo estremamente naturale. Un po' di problemi sono stati in qualche modo costituiti da quest'abito, la cui gonna sembrava essere dotata di vita propria. Aveva un diametro molto ampio e fluttuava in continuazione, con il rischio di inglobare durante il ballo il principe. E quindi eravamo costretti a scivolare più che a compiere veri e propri passi per il ballo. Sono rimasta assolutamente stupita quando alla fine della ripresa ho visto tanti componenti della troupe venirmi incontro davvero con le lacrime agli occhi. E a quel punto tutte le mie paure sono state superate. È stato davvero un momento speciale. Così parlò Lily James, la Cenerentola di questo nuovo film disneyano nei cinema italiani. Grazie a Boris Sollazzo, che è stato con noi per raccontarci, per aiutarci a interpretare i film di questo weekend. A questo punto noi andiamo al cinema da vedere in casa, ma passiamo prima dal nostro gioco della scorsa settimana. Qualcuno ti voleva morte e tu lo sapevi. Così andavi in giro per i locali peggiori, in cerca del bestione più grosso e cattivo, e hai trovato me. Si trattava di Sin City, una donna per cui uccidere, e questo è il film con cui abbiamo giocato, questo è il Blu-ray che regaliamo a Giordano Toninelli di Ghedi, provincia di Brescia, e Gloria Tessarolo di Maserada sul Piave, provincia di Treviso, che hanno indovinato per primi il film lo scorso weekend. Saranno loro a riceverlo a casa, noi invece ci facciamo raccontare questa nuova uscita in Blu-ray da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, il seguito di uno dei film che ha ridefinito i confini tra cinema e fumetto, con Le tavole cupe di Frank Miller, dedicate alla città del peccato, che prendevano vita e sostanza in un noir insieme sanguigno, sensuale e freddamente digitale. Qui in questo ci sono sei storie di vendetta che fanno crescere una sull'altra un 3D che dà spessore alle tavole di Frank Miller, graphic novelist importantissimo, colui che ad esempio ha rifondato la saga di Batman, si è ispirato poi a Christopher Nolan, un cast di star di prima grandezza in personaggi picaturali ed apodittici, e il fascino di un cinema che divora un immaginario hard-boiled, oscuro, romantico e decisamente finale. Il Blu-ray ha un bianco e nero di definizione perfetta, esaltata nel dettaglio e negli spruzzi di colore e negli incarnati dei protagonisti, un audio avvolgente e caldo come deve essere un noir, e 45 di extra variamente assortiti. Andiamo alle segnalazioni dei film in TV della prossima settimana. Abbiamo parlato di grandi favole con Cenerentola, anche noi abbiamo le nostre grandi favole, guarda un po' come Le avventure di Pinocchio, e anche noi abbiamo una poetica per raccontarle. Comencini è quello che ci è riuscito sicuramente meglio di tutti. Domenica su Rai Movie alle 7.55 il Pinocchio di Comencini. Sì, è la versione ridotta dello sceneggiato di Comencini di Collodi, ed è uno dei migliori prodotti della storia della televisione italiana, e lo dico senza timore di esagerare. Un Pinocchio fedele al libro, ma capace di riscriverne la morale, di prendere le parti del bambino come da sempre nei film di questo straordinario regista, e mette in scena un bimbo preso dalla morale vecchia del padre e della fata turchina, e non solo dalle tentazioni del mondo. È veramente un film da rivedere per provare anche nostalgia della TV come era, insomma. Domenica su Rai Movie alle 7.55, mentre andiamo proprio di palo in frasca, ma un altro capolavoro imperdibile è Nostalgia di Tarkovsky, che lunedì su Rai Movie passerà all'1.50 di notte. Sì, poeta e musicologo russo è a Bologna per documentarsi su un musicista compatriota del Settecento. Con lui c'è una donna che lo ama, non ricambiata. È uno dei film più estremi di Tarkovsky, un film che ha un sublime elogio alla lentezza, pieno di lunghi piani sequenza che tolgono il fiato, denso di simboli da decifrare oppure da cui lasciarsi semplicemente trasportare in un viaggio che è insieme lirico ed allegorico, in cui si può fluttuare e galleggiare insieme a temi e figure come la fede cattolica, la maternità, la follia, la grazia, la nostalgia di casa e il ruolo dell'arte, e soprattutto la vita e la morte. È un film testamentario, un inno d'amore alla patria lontana e in ultimo un inno d'amore anche ai paesaggi del bel paese. E allora Nostalgia di Tarkovsky è lunedì su Rai Movie all'1.50. Grazie Giulio, a risentirci. Ecco, alla prossima. E allora siamo arrivati in fondo, sentite le note della nostra sigla, grazie a Pietro Lacorte che ci ha aiutato in regia, Silvi Boccaletti in redazione, appuntamento fra 7 giorni alla Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è.